da capo. Prenoto un biglietto per tornare al passato. Cercherò una stanza ancora a Camden Town. Ci diremo almeno un'altra volta ciao. Facciamo che non abbiamo rotto, che non te ne sei andata con il mio giubbotto, buttandomi le chiavi e gridandomi stronzo, lasciandomi senza parole in quel salotto. Ah, la vita è un diario che puoi scrivere o rileggere. Non riuscirò a dimenticare che ascoltavamo le canzoni inglesi, le canzoni di Elton John. Mi dicevi amore quanto resti, ti dicevo un altro po'. Giravamo tutti in pava a piedi, era nostra la città. Hai ancora quegli sguardi persi, come stai ora Claudia? Potessimo tornare indietro veramente, con la macchina del tempo, con la metro, con un'auto sgangherata, le tue labbra che sapevano di marmellata e cioccolata. Domani festeggiamo 10 anni che non ci vediamo e ti ho portato un libro sul passato, ma ho cambiato un po' il finale solamente per poterti rivedere. Ah, la vita è un treno in cui salire oppure scendere. Non riuscirò a dimenticare che ascoltavamo le canzoni inglesi, le canzoni di Elton John. Mi dicevi amore quanto resti, ti dicevo un altro po'. Giravamo tutti in pava. Canzoni inglesi, le canzoni di Elton John. Mi dicevi amore quanto resti, ti dicevo un altro po'.